avec des yeux d'opale, qui me fascinait, il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà un femme bail, ça fait déjà un femme bail. Au son des banjos, je l'ai reconnu, ce curieux sourire qui m'avait tant plu, sa voix si fatale, son beau visage pâle, mais mûr plus que jamais. Je me suis saoulée en l'écoutant, l'alcool fait oublier le temps, je me suis réveillée en sentant. Ci siamo lasciati venerdì parlando della femmina avvinazzante. Oggi riprendo il filo parlando della femmina allattatrice. Voi direte cosa c'entra? No, è un passaggio fondamentale. Anzi, diciamo che i due punti hanno senz'altro qualcosa in comune. Vi ricordate, venerdì parlammo delle donne che avevano questa fantastica capacità di portare l'uomo a stadi di ebbrezza inaudita come fabbricatrici di vino. La nuova attività enologica della femmina ci aveva molto sorpreso, perché era una delle mansioni principalmente riservate al genere maschile. Questa mattina osserveremo sempre il mondo femminile e i flussi migratori che vengono con ragazzini attaccati in ogni dove e riempono di spirito gioiosamente fecondo le nostre eredità locali. Beh, cominciamo a pensare che il bambino, l'infante, il fanciullino, il pargolo appena partorito sia una merce rarissima. Essendo merce rarissima c'è molta richiesta. Essendoci molta richiesta, tutte vorrebbero ornarsene. Non ho mai vissuto nella mia epoca, nella mia età, un'epoca così ricca di signore oltre 35 anni che ambiscono alla maternità o parlano della maternità o accarezzano il sogno della maternità come se fosse, oltre un'esperienza giustamente e sicuramente trasfigurante e completatrice della loro femminilità, come qualcosa di irrinunciabile, qualcosa ammantato di fantastica tenerezza, di sublime e quotidiana vertigine. Un po' perché siamo in un momento in cui c'è questa sorta di malintesa e tristissima area di ostentazione di virtù, per cui c'è un grande tripudio di mamme, di carrozzine, biberon, di felicità, di rappresentazioni consumistiche anche di questo tipo di fenomeno prettamente naturale, che è il mantenimento della stirpe umana attraverso appunto la procreazione. Un po' perché probabilmente c'è anche un grosso mercato dietro, c'è una raffinatezza di accessori per la maternità che fa sì che siamo arrivati all'estremo, che ho visto giorni fa, la pubblicità di un manuale di ginnastica con la carrozzina. Le mamme al parco con le carrozzine che compiono esercizi fisici appoggiandosi appunto sui supporti di queste fantastiche astronavi porta bambini. Ve ne do qualche immediata prova traendo da YouTube, che è la fonte del polso della nostra contemporaneità, alcuni esempi di mamme felici che hanno trasformato la maternità in una sorta di arte di bricolage dello scaccolamento del proprio bambino. Vorrei mostrarvi che cos'è un all-in-one, cioè un pannolino tutto in uno. È un pannolino costituito da uno strato esterno di poliuretano laminato, quindi un tessuto impermeabile, e all'interno non è necessario inserire alcun inserto. Oggi vorrei fare un confronto tra i pannolini lavabili e i pannolini usa e getta. I pannolini lavabili offrono dei vantaggi considerevoli sia in termini di rispetto ovviamente dell'ambiente, ma anche di rispetto della salute del bambino e vantaggi di tipo economico. Naturalmente si fa di necessità virtù, è chiaro che la tendenza è quella di trasformare un'attività che è sempre stata considerata tra le condanne bibliche della femmina, partorirai i tuoi figli con dolore, e avendoli partoriti con dolore, questo dolore deve proseguire come una lunga sfumata dannata per tutta l'esistenza, la povera madre, scarnificata, disossata, prosciugata dai figli. Ancora ho nelle orecchie le parole di mia madre, quanto mi hai fatto soffrire, quanti sacrifici, quanti dolori per te, quante notti alzate. Poi naturalmente i figli devono portarsi dietro questo questo strascico di dolore. Ma oggi sembra che sia esattamente il contrario. Avete sentito la fierezza di questa madre che conosce il pannolino tecnologico fatto con materiali spaziali, che trasformerà la cacca del suo bambino in una sorta di medicamentosa sostanza capace di dare la felicità a tutta la famiglia? 800 24 00 24, cosa ne pensate sinceramente, carnalmente, per la vostra esperienza della maternità? 800 24 00 24. Quello che proverò a realizzare è una torta di pannolini. L'ho vista per la prima volta in Sex and the City, viene regalata la festa prima manna a Charlotte. In pratica è una torta la cui struttura è composta di pannolini, vi farò vedere sistemati poi come, e decorata con nastri, fiori e poi tutti oggetti che serviranno al bambino: ciucciotti, biberon, calzini, copertine, giocattoli. Questi sono i pannolini che userò, li ho comprati alla Lidl e costano circa 9 euro, un pacco da 56. Purtroppo la misura più piccola è questa da 4 a 9 kg. Io ho già realizzato una torta di pannolini. Naturalmente non tutte le mamme sono contaminate da questo da questa fanta delirante passione per la costruzione e l'architettura della propria maternità attraverso elementi tratti da tecnologia. Avete sentito dai telefilm, Sex and the City viene usato nella sua parte residuale come elemento di ispirazione di una torta di pannolini. No, ci sono un movimento molto interessante, di cui abbiamo già notato alcune avanguardie, di mamme che vogliono riportare la maternità al giusto rango di una attività che si fa più o meno piacevolmente. Molte volte ci si trova, non sempre con una partecipazione consapevole al 100%, ma una volta che uno c'è la porta avanti, come tante cose. È una delle tante attività, poi alla fine giustamente ci si affeziona al bambino, si è buone madri, si elabora il proprio quotidiano con questa cosa in più. Ma da qui a farne comunque una sorta di fantastica missione da sante, da eroine, probabilmente ce ne passa. Penso che sia d'accordo Chiara Cecilia Santa Maria, buongiorno. Buongiorno a tutti. Questa ragazza che sta accanto a me questa mattina in studio si trovò un giorno a accorgersi di essere mamma. Il frutto del suo seno, il frutto della sua esperienza, e naturalmente questa bambina che ormai è 2 anni e mezzo, che sta allevando, crescendo, come sempre è stato fatto nella storia dell'umanità, ha lei fruttato una grande fonte di ispirazione, che è innanzitutto un blog, ma che davvero.it, dove raccoglie testimonianze, si confronta con tutte le persone come lei, si trovano a gestire un bambino senza sentirsi per questo illuminate da una luce che attraversa i cieli, esce da una nuvola e dice tu sarai madre. E da un libro che ho in mano, edito da Rizzoli, Quello che le mamme non dicono, il cui sottotitolo è senz'altro indicativo di quella che è stata la situazione che ha determinato la vicenda di Chiara Cecilia Santa Maria, che determina la vicenda probabilmente di un numero precipuo di mamme nella nostra contemporaneità. Dal pampero ai pampers, alla ricerca dell'istinto materno. La storia di tua figlia nasce da un pampero, mi sembra aver capito. Quasi, nel senso che nasce in una situazione, in un contesto in cui io avevo 27 anni e quindi conducevo una vita totalmente distante da quella che era la maternità, quindi iniziavo a lavorare, andavo ad aperitivi, feste, uscivo con le amiche, iniziavo a conoscere quello che adesso te la sgodicchiavi come era giusto la tua età. Esatto. E diciamo Galeotto fu il pampero, allora non c'è nulla di strano, diciamo, in una fantastica, immagino, non l'ho visto, situazione di euforia e di passione fu concepita la tua bambina. Sì, diciamo così, esatto. Diciamo, le alternative sono molto limitate. E da allora cosa accadde? Quale fu il primo pensiero? Ma il primo pensiero è stato che non mi... di panico, chiaramente, perché a 27 anni è considerato molto presto al giorno d'oggi rimanere incinta di un bambino. E già questo è il primo paradosso, 27 esatto. Anni, una già una primipara tardiva, secondo i medici. È vero. Invece i 27 sono i nuovi 18, diciamo, al giorno d'oggi, perché chiaramente hai un contratto precario, spesso sei fidanzata da poco, il contesto sociale a 30 anni non ti ispira particolarmente a riprodurti. È un po' come avevo detto all'inizio, se correggimi se avevo fatto una cattiva lettura. Da una parte uno cerca una propria stabilità, perché d'altra parte la controparte maschile sembra poco propensa a prendersi il peso addirittura di una famiglia e dei figli. Preferiscono offrirti il pampero, andare in giro, sentire musica, parlare, chiacchierare, fare gli aperitivi. Assolutamente, almeno fino ai 35, la maggior parte, chiaramente senza generalizzare. Diciamo che quello tra i 25 e i 35 oggi è un momento in cui si prendono le misure e non ci si sente pronti ad avere la responsabilità di un figlio. E invece è arrivata Viola e oltre a questa ho deciso di sentirmi preparata, quindi ho portato avanti la gravidanza, però non mi ritrovavo in questa immagine di mamma che mi arrivava da ogni dove, quindi di donna perfettamente felice, senza un dubbio, dolce, pacata, che si accarezzava il pancione. Sentivo dei dubbi e delle perplessità che ho trovato. Beh, diciamo che non sono rose e fiori, nessuno lo dice, non è che sia proprio non è soltanto il piacere di andare a comprare i corredini e di mettersi quei fantastici abiti prima man che si vedono nelle riviste specializzate. Fra questo c'è anche altre cose che tu hai ben provato. E hanno cominciato a darti un'idea, diciamo, più realistica della maternità. E diciamo che l'idea più realistica me la sono dovuta andare a cercare, perché non la trovavo né nei manuali né dai racconti delle amiche, delle mamme. Insomma, ho iniziato a parlare in rete, a aprire il mio blog, proprio perché volevo raccontarla in modo diverso, un po' più sincero. Allora, 800 24 00 24, mamme ascoltatrici in ascolto, fateci questa mattina questa grande omaggio di permetterci di essere trasmissione di servizio. Raccontate quali sono gli aspetti della maternità che normalmente vengono sottaciuti, non vengono rivelati, non vengono esplicitati, non perché noi vogliamo questa mattina demonizzare la felicità della maternità, perché pensiamo che debba essere data una visione realistica di quello che è essere mamma, perché sennò altrimenti ci si trova abbastanza sprovvisti, poi entrano in gioco gli psicanalisti, poi entrano in gioco i problemi, poi i bambini hanno tanti di quei bei problemi di cui oggi vediamo molto parlare, soprattutto quando prendono i genitori e li fanno a pezzi con l'accetta. A volte, quando sentivo i racconti di certe mamme esauste, pensavo: ma è mai possibile che capitino tutte a loro? No, non è possibile. E invece sì. Oggi la Porpi, cioè mia figlia, ha la bronchite, io ho l'influenza, la nonna sta poco bene e lui è un periodo che è in trasferta 25 giorni su 30. Non contenta, ho rotto l'aspirapolvere, lo scaldabagno e gli occhiali. Questi ultimi li ho dimenticati sul cuscino ieri sera e stanotte verso le 4 ci ho lanciato sopra mia figlia. Allora, Chiara Cecilia Santa Maria, il lancio del figlio è una delle prime, diciamo, dei primi istinti che viene, ma però il figlio deve essere già nato. Cominciamo a vedere i primi momenti di disillusione, dal momento fatidico in cui ti sei resa conto che ormai il fattaccio era avvenuto, quindi c'era poco da fare, o perlomeno hai preso la tua decisione di tenertelo. Quando è cominciato i momenti in cui l'idillio è un po' meno roseo di quello che viene mostrato? Ma già dall'ecografia, ad esempio, vedevo alcune mamme che si commuovevano. Io ero contenta. Beh, guarda, ero felice. Facebook è pieno di video messi su YouTube delle ecografie dei bambini. C'è un'esaltazione psicologica della maternità. Già assomiglia al papà, vedo scritto cose fantastiche. Sì, e invece voglio dire, l'istinto materno è una cosa che sì, puoi avere innata, però può essere anche una cosa che cresce piano piano nel tempo. Io ho sempre fatto questo paragone un po' come le storie d'amore. Cioè, chi ha il colpo di fulmine anche appena vede il bambino appena nato, e c'è chi invece ci mette un po' di tempo. Non è necessario che dal primo giorno in cui tu rimani incinta ti vengono gli occhi a cuoricino e inizi ad amare la creatura. È anche umano, succede anche di essere perplessi all'inizio. Ma l'ambiente che ti circondava invece, una volta che tu eri mamma e quindi avevi intorno questa sorta di rosa bambagia che ti avvolgeva, e come si comportava verso di te? Qual è il mellifluo inganno di nonne, zie, parenti, quando c'è questa sorta di miracolo che si sta maturando in famiglia? Cioè il vedrai come sarai felice, vedrai come sarà bello, tutti che ti caricano di aspettative che poi magari non si avverano, e se non si avverano quei sentimenti che le persone ti dicono che tu debba provare, ti senti sbagliata. Vedrai come l'amerai appena la vedi, oppure vedrai come sarà bello allattare. Mio figlio appena nato era di una bruttezza, esatto. Orrendo, era era il mio, non l'avrei buttato alla finestra, però non è che non puoi dire che è bello, che quel batuffolino che vedi immediatamente pubblicato naturalmente sui profili Facebook, nei blog e via dicendo. No, la maternità è una cosa bellissima, meravigliosa, e nessuno lo nega, però non ci sono dei binari esatti su cui questi sentimenti materni devono viaggiare, e quindi non ci sono degli step di sentimenti che se tu non provi allora sei una cattiva madre. È giusto che ognuna viva la maternità e la senta a modo proprio, e questo non vuol dire amare di meno il proprio bambino. Io devo dire una cosa, a me piace fare citazioni autobiografiche, ne farò una soltanto. Ho visto ieri su Facebook la foto di una bambina che era nata proprio ieri, era nata il 10 aprile, e il padre mi ricorda che io sollevai la madre il 10 luglio a Viterbo, e già mi hanno scritto che la sera della sollevazione ebbero un atto d'amore dopo anni che aspettavano appunto di concepire, e la signora rimase impregnata, e questa è la prima figlia di una mia sollevazione. Questa è una cosa lunga e complicata, io sollevo donne, ho detto tu debba saperlo. Simonetta. Buongiorno. Stavo ascoltando la trasmissione e sono perfettamente d'accordo con quello che state dicendo. Per me è stato veramente, cioè mi sentivo veramente anormale quando in gravidanza con le nausee per 9 mesi, un lavoro e un marito che non capiva. Anche una bella sputarella viene a qualcuna. Non... sì, no, quello no, solo la nausea. No, beh, vedo girare con il rotolone dello Scottex in mano, è abbastanza normale. Quello no, quello non è, no, questo non lo diciamo per denigrare, perché sono cose da dire, è normale. Sì, sì, sì. No, è che ti senti anormale, cioè di fronte a delle altre donne che invece dicono che è bello accarezzarsi la pancia, che è bello essere in gravidanza, è stato il periodo più bello della mia vita, io veramente sì. Mi ricorda di migliori, Simonetta, sì. Sì, sì, sicuramente, anche adesso, nonostante magari le difficoltà di ogni giorno con i bambini che fanno le bizze tutti i giorni, che per carità è una gioia. Lei dice il marito non capiva il suo stato di maternità, ecco, come si comportano gli uomini? Perché sembra sempre che sono queste immagini da film che accarezzano, portano fiori, hanno anche loro le doglie, vengono in sala parto e felici tengono la manina. Esattamente come si comportano i maschi? Beh, diciamo che mio marito è venuto in sala parto più che altro perché mi vedeva impaurita, quindi mi ha visto impaurita e io sono stata contenta, insomma, che in quel momento mi ha supportato. Però poi, ecco, la fatica di portare appunto la pancia, non riusciva a capirlo. La fatica dopo anche di avere, insomma, questo bambino che piange, questo bambino che devi accudire, che comunque viene prima di ogni altra cosa, non la capiva, perché secondo lui appunto è una gioia immensa, è una cosa bellissima, quindi tutto deve essere fatto con naturalezza e senza fatica. In realtà la fatica fisica per me è stata abbastanza devastante, insomma. Allora, Chiara Cecilia Santa Maria, l'autrice che abbiamo qua in studio, che ha scritto Quello che le mamme non dicono, può essere che ci sia questa idea della gioia e della sublimazione, della felicità materna sia una sorta di anestetico per chi ti sta intorno, per giustificare il fatto che poi alla fine sono fatti tuoi e devi vedertela da sola. Sì, ma secondo me i papà proprio non si rendono conto, nel senso, hanno un'esperienza talmente diversa. Ad esempio, tu partorisci, hai questo bambino che ti strilla tutto il giorno, non sai chi è, non sai che devi fare, come lo devi tenere, e il papà dopo qualche giorno torna al lavoro, quindi intanto ricomincia a vedere persone più alte di 50 centimetri e che parlano italiano, con cui può scambiare e poi si distrae. Tu invece i primi tempi sei proprio lì in full immersion, la sera sei devastata con i capelli dritti, lui torna, ti guarda e fa: sono stanchissimo. E tu magari stai lì che veramente lo vorresti strozzare, ma è proprio perché sì, infatti, me non capisci. La famosa depressione postpartum prende proprio in questo momento: torni a casa col ragazzino e rimani sola e ti ritrovi un alieno che non sai da che parte prendere. E poi spesso la rete familiare, che un tempo si aveva di donne, di sorelle, di amiche che figliavano tutte insieme, oggi non c'è più. Vuoi per io le mi distanze? Ricordo che avevo un sacco schifo di questo coso verde che è l'ombelico mummificato, che ho paura che si staccasse. Quando la prima volta me lo trovai fra le mani da cambiargli un pannolino, c'era questa sorta di appendice aliena mummificata che era bruttissima. 800240024, tra un istante, ricordate, dovete darmi le vostre testimonianze di realtà materna, non come attraverso la favoletta che oggi viene raccontata. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Me lo ricordo, quel periodo post-parto fatto di 4 piani a piedi senza ascensore. La città che improvvisamente svelava barriere architettoniche per carrozzine. Una bambina a forma di polpettina minuscola che chiedeva e chiedeva e piangeva e piangeva e... sì, produceva e produceva. Ricordo che avrei dato qualsiasi cosa per avere un'amica nella stessa situazione, qualcuna a cui dire: senti, abbiamo lo stesso caos interno, facciamoci compagnia. Oppure: cosa devo fare se non fai il routine? O magari: facciamoci un giro che c'è il sole. O anche urlare insieme un liberatorio: aaaah! Non c'era nemmeno un parco del quartiere dove abitavo prima. Non è come 50 anni fa. Non esiste la rete familiare di cugine, sorelle e amiche che figliano un po' tutte insieme. Le mie amiche, a 27 anni, quando vedevano un pancione, si grattavano scaramanticamente. E credo lo facciano tuttora. Le gioie della maternità questa mattina, raccontate da Chiara Cecilia Santamaria, giovane mamma che ha scritto Quello che le mamme non dicono, Rizzoli, la storia di sua figlia detta Polpetta, dal pampero ai pampers, il suo istinto materno che si è andato fortificando e costruendo giorno dopo giorno, ma non è assolutamente così come viene fatto credere che sia questa fantastica, meravigliosa idilliaca e rosea passeggiata. Chiara Cecilia Santamaria, allora, alla luce di quello che abbiamo sentito fino adesso ai nostri ascoltatori e soprattutto ascoltatrici, ne vedo già 4 pronte in canna a sparare le loro testimonianze. Qual è il punto più crudele nel rapporto con il mondo che ti guarda, ti accarezza, ti vezzeggia, ti invidia ma allo stesso tempo ti lascia sola? Ma secondo me dire anche che ogni tanto c'è qualche piccolo rimpianto per la vita pre-pupo, che è un tabù allucinante, non si può dire che ogni tanto come si stava meglio prima, quando non c'erano tutte queste responsabilità. Però qual è la cosa che più rimpiangevi, i primi mesi? Beh, i viaggi da solo, i viaggi in coppia, perché ero una che viaggiava molto, ma anche così all'improvviso: che facciamo questo weekend, chiudiamo 2 magliette in un trolley e andiamo, questa improvvisazione creativa. Però insomma sono sentimenti che convivono con l'amore per il proprio figlio, non è che lo rinnegano, e quindi si può voler dire un weekend me ne vorrei andare un mese alle Barbuda, mamma tieni la bambina, non voglio più vedere. Ma tu hai i nonni a disposizione? Io fortunatamente sì, questo, il 90% del problema era risolto. Il 90%. Io farei un altro libro, Come allevare dei figli senza nemmeno i nonni a disposizione. Sì, è dura, è molto dura, ti credi, molto dura. Elisabetta. Sì, buongiorno signor Giannino. Io sì, signor Giannino, guardi, è già se n'è andato da mezz'ora abbondante, vorrei essere lui ma non sono io. Sì, mi scusi. Allora, io sono una mamma di Treviso e ho 3 bambini maschi. Sì. Sono nati tutti e 3 in casa per scelta. Ho scelto in gravidanza di ascoltare il mio istinto e di scegliere quello che desideravo. Il tuo istinto diceva falli nascere in casa. Sì. Sentì una vocina che diceva nasci in casa. Pensavo, ascoltavo i racconti di mia nonna, ma non pensavo che al giorno d'oggi si potesse. Ai tempi di sua nonna ne facciano 15 per tenersene 3 comunque. Mia nonna non ne ha fatti così tanti, ma comunque era quello che desideravo, e quando ho scoperto che si poteva ancora fare l'ho fatto. Io sono una libera professionista, sono un architetto e ho il mio da fare come professionista, però quando ho partorito mio primo figlio e poi anche gli altri 2 non mi sono mai demoralizzata, lasciata andare, ho cercato di fare di necessità virtù, cioè ho cercato di trasformare in positivo quello che avevo, che comunque era stata una scelta ovviamente ben ponderata, e ho cercato di aiutarmi in qualche modo. Per esempio i miei figli li ho portati tutti e 3, non ho usato carrozzine o passeggini, questo mi ha molto aiutata. Ascoltavo adesso... Cioè che vuol dire? Usava carrozzine e passeggini, dove li metteva? Allora, il primo l'ho portato nel marsupio, il secondo l'ho portato in amaca, il terzo l'ho portato con la fascia porta bebè. Ma perché doveva fare sottoporsi a questo spezzamento delle vertebre forzato? È poi così faticoso, assolutamente. No, certo. Io ogni tanto porto ancora mio figlio più piccolo che ha quasi 3 anni, non è poi una cosa impossibile. Ma anche la vocazione al soffrire fa parte delle libere scelte di una persona, però la carrozzina... Dipende, per me era molto più di sofferenza dover fare la fila col pancione all'ULS per 2 ore per fare gli esami e nessuno che mi desse la precedenza, era più di sofferenza dover passare con la carrozzina in mezzo alla strada perché nessuno mi lasciava passare sul marciapiede. Quindi adesso me li porto sulle spalle. Mi sono sentita molto più libera a portare i miei figli, andare dove volevo. Diciamo, la sua soluzione ha trovato una sorta di ritorno quasi arcaico alle gioie della maternità sofferente, questo l'aiuta, la fa star meglio. Sì, sicuramente. Ma è un punto di vista, io lo accetto. Grazie Elisabetta. Ida. Sì, Ida. Buongiorno. Io ho 46 anni e ho due figli, uno di 13 e uno di 6. Mi sono ritrovata molto nelle parole di Santa Maria, penso che per me non è scattato il colpo di fulmine. Sono una di quelle donne che non ha istinto materno, o meglio non l'aveva, non sapeva cosa voleva dire partorire un figlio. Però, e comunque, nonostante questo, ha allevato i suoi figli, quindi non ha nulla da rimproverarsi come madre. No, assolutamente, però confermavo quello che è stato detto prima in studio, non deve per forza essere innato nelle donne lo spirito materno. Io, finché i bambini non hanno iniziato a parlare, avevo difficoltà a relazionarmi con loro e mi sentivo di fronte a un qualche cosa di estraneo a me. E questo non mi ha impedito di essere una brava mamma. Guardi, tanto arriva il momento fatale in cui i figli diventano qualcosa di estraneo a noi, e questo è molto sano dal loro punto di vista. Quindi lei ha anticipato questa fattispecie e può essere soltanto contenta. Esattamente. E come dicevo prima, secondo me un sano egoismo femminile ci vuole per mantenere il dovuto distacco da queste creature e per relazionare meglio a loro, ma soprattutto per non perdere di vista la propria vita. Anche perché i figli poi, sa, quando crescono, se non hanno proprio così fissa l'idea di queste madri flagellate, distrutte, che hanno rinunciato a tutto, squartate, viscerate dal fatto che le hanno partoriti, magari vivono anche un pochino più tranquilli. Alessia. Salve, buongiorno Nicoletti. Allora, io sono una ex eco mamma, super mamma, bimbo in fascia, marsupio, parto naturale, eccetera. Ho mamma della domenica, in pratica, perché dopo aver adottato, diciamo, un po' come parlava la mamma precedente, non questa, quella prima, questo ritorno alla naturalità del parto, il portare i bambini in fascia, eccetera, mi sono resa conto che i danni che stavo producendo sui miei figli erano enormi. Sì, perché quando cominciano ad averci 17-18 anni, comincia a avere dei piedini grossi, continuare a portarsi sulle spalle magari crea problemi alla mamma ma anche al figlio. No, tra l'altro, ma i miei non hanno né 13 né 17 anni, ne hanno 3, la più grande ha 3 anni e mezzo, e già vedevo comunque insomma nel suo diventare piccola dittatrice il fatto che questo avere comunque una quasi imposta vocazione verso la maternità, questo doversi annientare per i figli eccetera, era in realtà di svantaggio sia per me chiaramente che per loro. Quindi sono tornata a lavorare, mi sono ripresa la mia laurea in mano e ora sono un po' più della domenica, ma vedo figli più felici, mariti più contenti e mi sento molto più rilassata di prima. Voglio dire, la mia esperienza è che spesso si tratta di prospettive e di priorità che ci si dà, ma anche di aspettative, insomma, no? La società ci impone di voler essere perfette, di dover esserlo, ma in realtà magari la perfezione poi è talmente oggettiva che bisogna un po' cercarsela. Vabbè, quindi questa mattina piena libertà di esprimere cosa significhi veramente essere mamma, quello che le mamme non dicono, con anche una sorpresa: tra qualche istante, dopo l'informazione del traffico, avremo un'altra autrice di un altro libro che tratta lo stesso tema più o meno, quindi questa mattina sono convinto che abbiamo scoperto un filone sotterraneo. Quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Io non ero proprio l'aspirante mammina fatta persona. Io mi sono data come regola di continuare ad essere anche altro da la mamma. Lavoro e faccio tante cose, lo giuro, è vero. Allora, porca miseria, qualcuno mi può spiegare perché in 3 giorni ho incontrato 3 persone in contesto professionale e tutte e 3 mi hanno chiesto: beh, come va la vita da mamma? Quando fai il secondo? Ok, ho fatto una figlia, ma il mio core business non è la riproduzione, non so come dirvelo. Tutto questo sbattersi per gridare al mondo "non sono solo una mamma", a cosa porta? Sapete il mondo come reagisce? Mamma! Ha detto mamma! Dunque, è una mamma! Evidentemente, qualcosa nel mio piano non ha funzionato. Chiara Cecilia Santa Maria. ma quando glielo regaliamo un fratellino? Guarda, tu me lo puoi chiedere, però quando me lo chiedono quando vado a fare un colloquio non mi piace così tanto. Ah, perché colloqui lavoro ti chiedono quando fai qualcuno il secondo? Qualcuno me l'ha chiesto, sì. Vuole fare il secondo figlio? Qualcuno me ma non sono paghi appagate del fatto che già ne hai fatto uno, quindi riduci al 50% le possibilità di dover sostenere una maternità da parte del tuo datore di lavoro. Ma vogliono accertarsene fino in fondo, perché evidentemente questa maternità non è, purtroppo non è vista come una cosa che ti porta risorse, ma come una cosa che ti toglie tempo. E cosa fai? Ostenti la pillola o la spirale, il cerotto e tutto quello che c'è nella borsetta, oppure dici no, non ho intenzione? Ma no, di solito a domanda personale faccio una domanda personale anche a loro a questo punto. Se loro si permettono di farla a me, allora sposto il discorso sui loro figli. Allora, ricordo che Chiara Cecilia Santamaria ha scritto Quello che le mamme non dicono, edito da Rizzoli, che è la storia della sua figlia, dal pampero che generò l'atto d'amore ai Pampers che hanno dato questa improvvisa entrata a questa giovane mamma nel mondo della maternità ostentata. Ma come ho già detto, non è la sola, c'è un filone sotterraneo di mamme che si sono stufate di essere considerate come angeli del focolare, come fattrici indefesse, ma cominciano a porre il punto sul fatto che la maternità sì è un impegno, ma non può essere la vocazione radicale e sostanziale di ogni donna. Deborah Papisca, buongiorno. Buongiorno. Hai scritto un libro che sta per uscire, che uscirà il 10 maggio, intitolato Di materno avevo solo il latte, per Dalai Editore. Vediamo quanto puoi confermare di quello che abbiamo già detto. Sì, dunque, Di materno avevo solo il latte, diciamo che è un titolo piuttosto incisivo perché è un piccolo contenitore che racchiude mille tematiche appunto riguardanti la maternità e ovviamente è la mia storia, quindi nel momento in cui io scopro di essere miracolosamente incinta perché affetta da endometriosi al quarto stadio, per cui potete immaginare la mia possibilità su un milione. Andavi di concepire... sicura, figurati, come su un'autostrada. Esatto, sì. Io ero quasi, diciamo, serenamente rassegnata al fatto che molto probabilmente avrei dovuto rivolgermi ad un centro di fecondazione assistita, anche se comunque ero contraria a prescindere. E poi invece è arrivata Camilla, mia figlia, che mi ha preso per mano e mi ha condotto in questo pianeta sconosciuto che è quello della maternità, dove il mio primo impatto è stato quello di dire qui c'è qualcosa veramente da rivedere, da correggere. Ecco, vediamo il punto. Cosa c'era da rivedere secondo te? L'immagine da giornale patinato, dopo lavoro parrocchiale e la realtà. Esatto, cioè questa immagine appunto, come hai detto giustamente tu, patinata, questo lato unico della medaglia che ti fa vedere la maternità solo come sinonimo del bello, del fantastico, dell'eccezionale, che è così, ma anche no. Nel senso che io ho conosciuto l'altro lato della medaglia, quello più oscuro, io la chiamo proprio il lato oscuro per fare un'evocazione di Guerre Stellari, dove ho dovuto fare i conti prima di tutto con la depressione postparto, che non auguro nemmeno al mio peggior nemico, e per fortuna è stata una depressione gestibile, nel senso che non sono arrivata a ricorrere a psicofarmaci, che comunque ecco ci sono purtroppo soggetti che sono costrette a ricorrere alla sia chiaro Deborah, questo non è che lo diciamo perché vogliamo disilludere ma perché secondo me è giusto riportarle in un termine di normalità, di realtà. Esatto. Ci siamo un po' staccati di una serie di pubblicistica che mostra maternità come se fosse questa sorta di viaggio nel paese delle meraviglie. Esatto, Barbie mamma sembra quasi di vivere, non era esattamente perfetto, così. Sì, mi stai togliendo le parole di bocca, nel senso che appunto... Ho qualche piccola esperienza in campo. Immagino. Sì, cioè è un'esperienza unica, molto profonda, è un cambiamento fortissimo, sia in termini di abitudini, che poi l'essere umano è ricco di abitudini, ha bisogno delle abitudini, ma ci si trova con l'arrivo di un figlio a un cambiamento repentino in cui il giorno prima tu sei in un modo, il giorno dopo sei completamente trasformata. Questo ovviamente avviene più per la donna che già a cui la trasformazione ha inizio nel momento in cui scopre sì, di c'è un altro aspetto, c'è un altro aspetto che non si sottolinea sufficientemente, questa metamorfosi, questa trasformazione. Esatto. Cioè la donna che diventa praticamente una gallina con un uovo che gli cresce dentro, diciamo, esatto. Questo più o meno, sì. Che sta tutto quello che lei mangia, c'è un piccolo vampiro dentro, che se lo una succhia e gli cresce dentro, sì, sì, questo alieno dentro, che poi è bello, è carino quando nasce, ma tutto sì, naturalmente dà degli scompensi, dei piccoli problemi, ma sembra quasi che lei non debba lamentarsi, debba sempre sorridere. No, ecco, noi siamo, esatto, dei cyborg, cioè noi, madre natura ci ha dato questo bellissimo dono, quindi noi ne dobbiamo trarre solo dei benefici. Guai se ci lamentiamo, perché potremmo rischiare di essere messe sulla gogna, ecco. Quindi io ho notato questo, probabilmente sono stata io stessa a mettermi nella condizione di vedere la maternità appunto nella sua immagine perfetta e di assolutamente negare tutto quello che di negativo poteva avere, per cui ricca di aspettative, con un carico da 90 di aspettative che avevo sulle spalle, quando io mi sono ritrovata mia figlia vis-à-vis, mi sono resa conto di quanto invece sia veramente tosto, anche perché consideriamo che io non appartengo a coloro che hanno lo spirito della chioccia, quindi come diceva una mamma prima al telefono, non ho assolutamente questo istinto, io lo chiamo mammesco, perché comunque sì, ma che secondo me è anche una cosa sana non averlo poi fino in fondo, perché guarda, il problema infatti, oggi della maggior parte degli adolescenti è di avere questa sorta di idea di essere dei beni così preziosi, dei gioielli talmente rari che se soltanto pestano i piedi hanno ciò che vogliono. Ma infatti, vuoi sentire un attimo l'altra tua collega? Scusami, così sì, prego. È Chiara Cecilia Santa Maria. Se vogliamo fare un elenco gerarchico dei disagi, ma questo sempre per dare un'idea realistica, vogliamo affrancare le donne dal bisogno e necessità di essere sempre mamme felici, sorridenti e vestite di fiorellini rosa. Quali sono le cose che più pesano in questa situazione, che poi durerà tre, passati tre terribili anni, vedrai le cose cominceranno a essere, certo, lievemente più facili. Ecco, la fatica fisica e mentale, la solitudine o la libertà che ti è sfuggita, che vorresti riavere che non hai, qual è la cosa peggiore? Ma guarda, io metterei a pari merito solitudine e questa voglia di libertà, ma voglia di libertà, libertà non intesa come voglio scappare, ma come voglio trovare un equilibrio tra la mia vita e il mio sano egoismo e la vita e il benessere di mio figlio, perché secondo me le mamme, le brave mamme sono delle donne felici innanzitutto, quindi se tu sei una donna felice che riesce a trovare una tua dimensione e riesce a realizzarsi con un figlio accanto, con tutto l'amore del mondo, va benissimo. Va benissimo se tu vuoi restare a casa 24 ore a stare con tuo figlio, ma va benissimo anche se tu vuoi tornare a lavorare e fare la mamma della domenica, come diceva la signora prima. Quindi secondo me, ecco, raggiungere il giusto equilibrio per sentirsi felici, realizzate come persone, insieme a essere, sentirsi felici, realizzate come mamme. E la felicità è reale, è possibile e anche godibile quando non diventa un obbligo sociale. E se l'essere felicemente mamma deve essere un obbligo sociale, questo magari probabilmente è un concetto che va rivisto. Ringrazio le autrici, ringrazio le ascoltatrici, ringrazio le mamme felici, ringrazio tutti, ci sentiamo domani. Alors tous deux on est repartis dans le tourbillon de la vie, on a continué à tourner tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.